vuole più cultura. Ok, in Italia c'è lo spaghetto ed il vinello, ma anche chi va oltre a quello, chi ha dovuto reagire a un duro colpo e non resta più sulle sue ma è coinvolto. C'è la stampa scandalistica coi culi famosi, sì, giudicare cazzi altrui per non pensare ai tempi bui. Io stesso non ho visto tutto e neanche ho fretta, ma la vita corre forte a volte e non aspetta. Non metto i paraocchi come certi pidocchi, che ne hanno una per tutti, basta che non li tocchi. Tutti i mali del mondo, ok, non posso curarli, ma se non ne capisci, che cazzo parli? Levate sti vecchi buffoni e le veline, mettete più cultura e toglieteci sta fregatura. Quando sta in cucina e li guardi, urlagli che cazzo parli, che cazzo parli. Quando sta in salotto e si è fatto tardi, urlagli che cazzo parli, che cazzo parli. Uno prima o poi dovrebbe fermarli, urlagli che cazzo parli, che cazzo parli. Nelle guerre c'è chi guadagna dalla morte, a me sembrano soldi sporchi delle menti sporche. Alla tele la cultura è in terza serata, sul giornale la cronaca è la più sventolata. Niente di tutto questo ti suona nuovo, voglio musica e arte, questo suona nuovo. Dell'informazione fatta in modo intelligente, col mio rap accendi il culo, lo spegni la mente. Chi dice che non regge questa mia trovata, vuole rimbambirti e darti un'inculata. Tutti i trucchi del mondo non posso scovarli, ma se non ne capisci di che cazzo parli. Levate sti vecchi buffoni e le veline, mettete più cultura e toglieteci sta fregatura. Quando sta in cucina e li guardi, urlagli che cazzo parli, che cazzo parli. Quando sta in salotto e si è fatto tardi, urlagli che cazzo parli, che cazzo parli. Uno prima o poi dovrebbe fermarli, urlagli che cazzo parli, che cazzo parli.